Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Se tutte le volte Berlusconi si dovesse dimettere in seguito alle accuse dei giudici, non esisterebbe il Berlusconi politico, come vorrebbe la sinistra italiana. Poi però non viene mai condannato, ma assolto in secondo e terzo grado. Berlusconi non si deve dimettere. Lettera firmata. Gentile Radio 24, in merito al caso Mills Berlusconi. Molti sostengono che è preferibile la stabilità di un governo, in questo caso quello di Berlusconi, alle sue dimissioni. Questo perché la stabilità aiuta, soprattutto in momenti di crisi. Non entro nel merito della scelta tra stabilità politica e giustizia. Il punto è il preferire la stabilità a qualcos'altro. Questo paragone lo fanno molti, troppi. E a furia di ripeterlo sui giornali, alla radio e in TV, va a finire che la gente lo assorbe, lo assimila. Tanto per non dimenticarci di nulla, vorrei ricordare che la stabilità fu una prerogativa del fascismo. 20 anni è durato. All'epoca si preferì la stabilità a qualcos'altro perché la gente il consenso lo concedeva. E come? Saluti, Laura. Berlusconi non si dimetta. Attualmente è presidente del Consiglio. Alla fine del mandato, eventualmente potrà essere giudicato. Vediamo cosa farà il governo durante il mandato. Poi votiamo. Cordialità, Enza. Scrivo in merito ad un malcostume molto diffuso sui campi di calcio nostrani e che ogni volta non manca di disgustarmi. Sto parlando della bestemmia. Io ho 29 anni e gioco in una piccola squadra di terza categoria. Spesso mi è capitato durante la stagione e durante la mia misera carriera di assistere a scene nelle quali la bestemmia veniva urlata in modo plateale, sguaiato, vigliacco, osceno. Mi sono sempre indignato, ma nulla di più. Eppure, in qualità di capitano della mia squadra, sarei potuto intervenire per riprendere un mio compagno, magari più giovane e superficiale. Per questo mi reputo più vile di chi la bestemmia la proferisce. Qualcuno diceva: «Gioca e sii uomo». Me lo ripeto sempre fino all'attimo prima del fischio d'inizio. Vorrei veramente essere uomo fino in fondo e saper zittire una volta tanto il bestemmiatore di turno. Il regolamento stesso indica chiaramente la possibilità, o meglio dire il dovere, di espellere colui che si rende protagonista di questa azione. Perché non viene mai applicato alla lettera? Anche in Serie A il fiorire di telecamere a bordo campo, che colgono fino al più insignificante dei labiali, ha contribuito talvolta a pescare questi atti. Dico, si abbia almeno la decenza di non riproporli come replay. Stefano, da Brescia. Gentile Radio 24, volevo intervenire in merito alle discussioni che si stanno facendo a riguardo degli extracomunitari che vengono rispediti in Libia. Io abito in provincia di Vicenza e precisamente a Crespadoro, un comune poco distante da Arzignano, noto per le molte industrie conciarie. In questo territorio gli extracomunitari in pochi anni hanno piantato radici al punto che la piazza alla sera è praticamente tutta straniera. Non ci si può fidare a uscire alla sera per una passeggiata. Non sono razzista, però non pensavo che saremmo arrivati a questo punto. Sono madre di una bimba di 15 mesi e molte volte penso a quando sarà grande. Come farà a inserirsi in questa società dove tutto sembra essere freddo? Sentire che vengono rispediti al loro paese mi fa pensare e sperare che qualcosa si muova. Spero non solo per le votazioni. Cordiali saluti, Nicoletta. Ascolto da New York via podcast le vostre trasmissioni. Qualche sera fa ho ascoltato le telefonate di un ragazzo che cercava di ottenere un visto turistico per la propria ragazza extracomunitaria e di un ragazzo che si voleva sposare con la fidanzata olandese. Io ho appena finito di rinnovare il mio visto permesso di lavoro qui negli Stati Uniti, operazione che richiede impegno di tempo e denaro e molti documenti, ma una politica di immigrazione dura non mi sorprende né spaventa. Di certo da immigrante non fa piacere, ma ritengo che uno Stato debba controllare i flussi migratori e sapere chi si trova sul proprio territorio. Il problema è il perché in Italia la situazione è inaccettabile e in America invece la stessa situazione mi sembra corretta. Ai ragazzi che raccontavano la quantità di documenti che servono per ottenere un visto turistico, tra gli altri iscrizione alla Camera di Commercio della ditta dove lavora l'immigrante, 3.000 euro di fideiussione bancaria e il certificato di idoneità abitativa, Si risponde che tutto questo è dovuto al fatto che c'è chi se ne approfitta e quindi è giusto mettere ostacoli sulla via dell'immigrazione. È una risposta sbagliata, perché una burocrazia elefantiaca non può essere giustificata dall'incapacità di uno Stato di controllare il proprio territorio. Anzi, è proprio uno dei più grandi problemi italiani questa massa di carte burocratiche che sommergono, nascondono e proteggono proprio quelli che se ne approfittano. Una burocrazia elefantiaca non è la risposta al problema dell'immigrazione. Impedisce soltanto a chi vuole comportarsi secondo le regole di seguirle. È un boomerang terribile per uno Stato e faccio un esempio. Una mia amica americana doveva venire in Italia per fare un master alla Bocconi di Milano. Avrebbe pagato il master, l'affitto di un monolocale a Milano, a distanza di passeggiata dalla Bocconi, e 12 mesi di vita in Italia. Cibo, trasporti pubblici, intrattenimento, eccetera. Ha rinunciato dopo essersi scontrata per 2 mesi con il muro di gomma della burocrazia al consolato italiano. L'erario italiano ha perso in questo modo le tasse su 16.500 euro di corso alla Bocconi e, diciamo, sui 20.000 euro di spese accessorie, affitto, eccetera. Vivo da quasi 10 anni fuori dall'Italia, prima in Francia ed ora negli Stati Uniti. In entrambi i paesi ho dovuto passare attraverso le tappe burocratiche dell'immigrazione. Sembra strano, ma pur essendo europea, per prendere la residenza in Francia ci sono dei passaggi burocratici da fare. Semplici e praticamente automatici, ma ci sono. Verifica identità, impiego, eccetera. Il tutto si riduce ad una visita in questura dove viene consegnata una busta che contiene la lista dei documenti da spedire in copia e una busta preaffrancata dove mettere il tutto. Dopo un mese, il permis arriva per posta al proprio domicilio. Se non arriva, si ha il diritto di andare in questura ed ottenere spiegazioni. Se invece la domanda dovesse essere illecita, è la polizia a presentarsi al domicilio, immagino molto prima di un mese. In America la trafila è più dura, ma la legislazione è altrettanto chiara. Se il dossier è fondato, il visto si ottiene. Questo è il mondo e in Italia non esiste. Lettera firmata. Sono una ragazza di 40 anni, titolare con mio fratello e mio padre di una piccola impresa artigiana metalmeccanica. Vorrei informarvi di cosa succede qui fuori nella realtà del lavoro artigiano. Noi piccoli artigiani siamo stati abbandonati da tutti, non siamo tutelati in nulla. Anche se dicono in TV tante belle parole, noi sul campo non abbiamo visto nemmeno una galletta. Il momento è difficile per tutti. Alcuni nostri clienti non ci pagano perché a loro volta non vengono pagati o perché qualcuno di loro addirittura chiude. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo resistito fino ad ora, mettendo nell'azienda tutti i nostri risparmi per cercare di pagare i nostri fornitori e non licenziare nessuno. Ora però non ce la facciamo più. Abbiamo anche chiesto un prestito in banca garantito all'80% da una società di garanzia e con un 30% depositato su di un conto a garanzia per la banca. 3 mesi dopo la nostra richiesta, ci hanno chiamato dicendoci che non solo non ci danno il prestito, ma ci trattengono i soldi a garanzia della cassa, altrimenti ce la devono diminuire. Per di più, non hanno pagato le scadenze del mese. Quindi, come si dice, oltre al danno, la beffa. Per sanare la situazione e arrivare alla fine dell'anno nella speranza della ripresa, abbiamo chiesto di ipotecare la casa per un terzo del suo valore e ci hanno risposto picche. Ma dove sono tutti i soldi che hanno stanziato a favore delle imprese? Chi diceva che ora le banche non si possono più tirare indietro? E lo credo che le banche stanno risanando i loro conti. Possibile che dopo 25 anni di conto corrente, sempre con la stessa banca, di punto in bianco siamo diventati poco affidabili, noi piccoli brutti e sporchi artigiani? In fin della fiera le nostre commissioni e fior di commissioni e i nostri interessi passivi li abbiamo sempre pagati. Silvia. Gentile direttore, in questi giorni siamo stati invasi da una nuova ondata di polemiche per il caso Mills Berlusconi. Non pensa che si debbano risolvere una volta per tutte i problemi legati agli ormai eterni conflitti esistenti tra magistratura e presidente del Consiglio? Giorgio. Caro Giorgio, nei mesi scorsi il Parlamento aveva approvato il famoso Lodo Alfano, una legge che ha imposto la sospensione dei processi in corso per le più alte cariche dello Stato. Proprio per questa legge la posizione personale di Berlusconi era stata stralciata dal processo di cui sono state rese note nei giorni scorsi le motivazioni della sentenza. Ebbene, proprio con queste motivazioni è rientrato dalla finestra quello che si era cercato di scacciare dalla porta, cioè il coinvolgimento del Presidente del Consiglio in procedimenti giudiziari. Per la giustizia, quindi, Berlusconi ha corrotto un avvocato che avrebbe testimoniato il falso per proteggere gli interessi economici dello stesso Berlusconi. Una sentenza scandalosa e basata su evidenti falsità, ha replicato il Presidente del Consiglio, accusando i suoi accusatori. Come uscirne? Lei, caro Giorgio, chiede di risolvere il problema una volta per tutte. Questo potrebbe voler dire due cose: o ampliare il lodo Alfano, bloccando tutti i processi che in qualunque modo possano riguardare il Presidente del Consiglio, oppure convincere quest'ultimo a dimettersi, come vorrebbe l'opposizione, ponendo così automaticamente fine al conflitto tra magistratura e politica. Due ipotesi diametralmente opposte. Ma non ci sono solo le soluzioni drastiche, sia in un senso che nell'altro, anche se ovviamente è perfettamente legittimo chiedere l'una o l'altra cosa. Certo, sarebbe meglio se i giudici non si dovessero occupare dei comportamenti dei politici, ma anche i politici, come tutti i cittadini, hanno il diritto di essere considerati innocenti fino alla condanna definitiva. E spetta quindi alla sensibilità di ciascuno trarre le conseguenze. Senza dimenticare che la legittimità dei politici dovrebbe derivare in primo luogo dalla libera espressione del voto democratico. Un voto che ovviamente tiene conto di tutti i fattori di cui si parla in questi giorni, sentenze di primo grado e vicende private comprese. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.